Buonasera, sento importante con due microfoni stasera e con la giacca anche, avete notato la giacca? Dio è buono! So che vi ho spaventato, era proprio quello l'intento. Dio è buono, amen? Sempre Dio è buono. Vogliamo chiudere i nostri occhi, abbassare ancora il nostro capo e voglio fare una preghiera. Signore, ti ringrazio perché sei buono. Ti ringrazio di cuore perché ami ciascuno di noi profondamente e ti ringrazio per quello che tu vuoi dirci questa sera e noi vogliamo chiederti nel nome di Gesù di aprire i nostri cuori, aprire le nostre menti e aprire proprio tutta la nostra vita a ricevere quello che tu hai da darci questa sera, perché vogliamo di più di te come l'abbiamo cantato e vogliamo lasciare questo luogo ripieni della tua presenza, ripieni del tuo vigore, non come siamo entrati ma trasformati. Grazie Gesù. Amen. Abbiamo cantato prima, vediamo se riesco a leggerlo, di tutte le montagne lui è più alto, di ogni peso su di noi è più grande, di ogni valle scura lui più potente è. Bello, eh? Poi abbiamo cantato anche in tutte le paure lui è vicino, di ogni dubbio dentro noi è più forte ed ogni battaglia lui vinse già per noi. È incredibile quello che cantiamo in questa sala, è vero? Non so voi, però io a volte quando canto non mi rendo neanche conto di quello che sto cantando, lo realizzo solo dopo, quando magari lo ripenso, lo prego, ma questo è quello che noi abbiamo cantato e questa è la nostra fede. Noi crediamo che Dio è più grande, noi crediamo che Lui è più forte, crediamo che Lui è più potente e che Lui ha già vinto per noi. Amen? E io questa sera voglio parlare di fede, perché io credo che il Signore sta chiamando noi come Chiesa ad essere una Chiesa che è fondata, è radicata e cresce nella fede. Vi ricordate che l'ultimo messaggio che io ho dato era proprio sulla fede e ho parlato di quando Gesù ha ripreso i suoi discepoli e il titolo di quel messaggio è aggiorna il tuo stato, no? Perché è importante che noi aggiorniamo il nostro stato e ci ricordiamo che il nostro Dio, colui che noi adoriamo, colui al quale noi preghiamo, non è un Dio morto ma è vivo. È vivo oggi e fa miracoli oggi e salva oggi e trasforma oggi e dà speranza oggi. C'è speranza per te questa sera perché Gesù è vivo e noi dobbiamo aggiornare il nostro stato. Non possiamo stare più in quella stanza buia, chiusa, dove piangiamo ancora un Gesù che è invece risorto. E il bello è che noi quando ci riuniamo in questa stanza, un po' più grande di, di quella stanza in cui i discepoli probabilmente piangevano, non manchiamo mai di lodare il Signore. E la nostra lode sulle nostre labbra è sempre ben motivata dal fatto che il nostro Dio è vivo. E io voglio ricordartelo questa sera, qualsiasi la circostanza con la quale tu sei venuto questa sera, il tuo Dio è vivo. Qualsiasi è il bagaglio, qualsiasi è la cosa che ti opprime, il tuo Dio è più grande, il tuo Dio è più forte, Lui può, perché è il Dio dei miracoli, Lui è l'Onnipotente. E Gesù quello che fa nella sua storia su questa terra, ai suoi discepoli, ma anche alle persone che incrocia continuamente, è elogiare e a tratti riprendere la fede. Elogiava le persone che avevano più fede e riprendeva coloro che mancavano di fede, perché Gesù è incessantemente interessato alla crescita della nostra fede. Per questo noi oggi, quando leggiamo la parola di Dio, ci troviamo di nuovo davanti a questo confronto nei nostri riguardi, dove ci sembra che Dio a volte ci elogia, ci incoraggia perché abbiamo fede, perché stiamo avendo fede, perché stiamo pregando, perché ci stiamo affidando a Lui, e a tratti Lui ci riprende anche. Questa sera non prenderemo una storia dove Gesù riprende la fede, ma questa sera andremo a prendere una storia dove Lui elogia la fede. Andiamo insieme a lezione di fede, questo è il titolo del messaggio di questa sera, e andiamo a lezione di fede interessandoci di una donna che a detta di Gesù aveva tanta fede, aveva una fede grande. Vogliamo leggerlo insieme? È un passo che si trova in Matteo, dal capitolo 15, versetto 21 e 28, lo potete leggere con me dallo schermo. Partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è gravemente tormentata da un demonio!» Ma egli non le rispose parola. E i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano dicendo: «Mandala via, perché ci grida dietro!» Ma egli rispose: «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele». Ella però venne e gli si prostrò davanti dicendo: «Signore, aiutami!» Egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini». Ma ella disse: «Sì, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù rispose: «Donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi». E da quel momento sua figlia fu guarita. Quanti non hanno mai capito questa storia? Sinceramente, potete alzare la mano. Quanti non hanno mai capito l'atteggiamento di Gesù? Tu leggi di un Gesù che è proprio contrario a quella che è l'idea che tu ti sei costruito e fatto da sempre, di un Gesù che è buono, di un Gesù che è attento, di un Gesù che non può rivolgere ad una donna disperata parole dure come: non posso darti attenzione, non sono venuto per te, o sei un cagnolino e io non darò quello che spetta ai figli in pasto ai cani. Questo è letteralmente quello che Gesù ha detto. Però questa sera io spero che con me possiate capire un po' meglio questa storia, perché queste sono le storie che mi affascinano, queste sono le storie che mi attraggono, perché non mi so dare spiegazione. Poi mi ricordo a me stesso e vorrei ricordare anche a tutti noi questa sera che la Bibbia va letta lentamente. Tanta, in grossa quantità, ma lentamente. Non andare mai di fretta quando leggi la Bibbia, non leggerla mai con superficialità. Se io dovessi chiudere qui il mio sermone, sedermi dopo aver letto semplicemente questo verso, probabilmente la tua idea sarebbe insufficiente di quello che il messaggio che Gesù vuole darci attraverso questi versi. Ma se noi insieme facciamo questo viaggio dove diamo peso ad ogni parola, dove diamo peso alla circostanza, dove ci rendiamo conto del contesto nel quale Gesù si trova, allora capiremo sicuramente molto di più di questa storia. Ora, io stasera ho una grossa difficoltà, perché solitamente i miei messaggi hanno 3 punti. Per chi mi conosce più o meno lo sa che i miei messaggi sono fatti dall'introduzione, la lettura di un passo, e poi cerco di tirar fuori 3 punti, perché la soglia di attenzione nostra è molto limitata e noi riusciamo ad assimilare solitamente un massimo di 3 punti. Stasera non ne ho 3, non ne ho neanche 4, non ne ho 5, ne ho ben 6 di punti, ok? Quindi dai una pacca alla persona che ti sta a fianco e di buona fortuna stasera, anche se buona fortuna non si dice. Tutto il racconto ci permette di comprendere almeno 6, anzi sono 7, come ve lo dico, perché non potevo rimanere con questo numero, sai che biblicamente è il numero dell'insufficienza, della non completezza, doveva arrivare a 7, quindi il 7° è arrivato, e quindi stasera vi tratterò per altri probabilmente 2 ore e mezza. Comunque il primo punto che noi impariamo di 7 buone qualità della fede, lo impariamo da questa donna, è che la fede riconosce chi è lui. La fede riconosce con chi hai a che fare. Quando tu hai fede dentro di te, sai con chi stai avendo a che fare. Quando c'è vera fede, buona fede, sincera fede, fede che è genuina, che è santa, che è pura, tu sai a chi è rivolta questa fede. Ti rendi conto della grandezza del Dio con cui hai a che fare. Noi vediamo dall'inizio che il grido di questa donna è: «Figlio di Davide». Ora io vorrei che noi comprendessimo dove Gesù si trova. Gesù si trova in un territorio, è il territorio più lontano nel quale Gesù si va a trovare, lontano da quell'area abitata dai giudei. Non si allontana mai così tanto per andare in un paese che è un paese pagano. Gesù si ritrova in città come Tiro e Sidone che erano piene di culti pagani. In queste città si adoravano degli dei ai quali si offrivano in sacrificio, pensate un po', addirittura dei bambini. E questi rituali prevedevano anche rituali di fertilità, di orge, c'era ogni sorta di contaminazione, se vogliamo chiamarla così, di peccato in quei luoghi. Ed è per questo che il popolo di Israele non poteva vedere bene quella regione, non poteva vedere di buon occhio gli abitanti di quella regione, di Tiro, di Sidone. E infatti per questo il popolo di Israele li riteneva dei cani, perché i profeti nell'Antico Testamento riprendevano ripetutamente il popolo di Israele quando si immischiava, quando veniva attratto da questi rituali, quando veniva adescato da queste trappole diaboliche nelle quali si trovano. E questa donna ha una figlia indemoniata. E forse noi possiamo ricondurre il fatto che la figlia sia indemoniata proprio da questi culti, da questa presenza satanica nella loro quotidianità. Ma la donna ha qualcosa di straordinario. Da subito noi riconosciamo che questa donna, pur essendo pagana, pur essendo lontana da Dio, pur non facendo parte del popolo di Dio scelto e non avendo nulla a che vedere con le leggi di Dio, riconosce in Gesù il Messia. Quando la donna dice figlio di Davide, sta dando a lui una connotazione messianica, un titolo messianico che solo persone che riconoscevano in Gesù, colui che era mandato, colui che era l'unto, colui che era il prescelto per portare salvezza e liberazione nel mondo, poteva dare. E quindi noi riconosciamo che questa donna ha una grande fede sin dalle primissime parole che gli escono dalla bocca. Lui riconosce con chi ha a che fare, lei sa che davanti a lei c'è Dio in persona, carne e ossa, la promessa di Dio, e sa che Lui può ogni cosa. Questa è la prima caratteristica. La fede in te ti porta a riconoscere con quale Dio meraviglioso hai a che fare, un Dio di liberazione, un Dio di salvezza, un Dio che vuole benedire, un Dio che vuole portare ristoro, un Dio che vuole guarire, un Dio che è misericordioso, un Dio che è amore, non un Dio pagano, distante, morto, sordo, violento. Quello che fa la fede è permetterci di vivere nella consapevolezza che il nostro Dio, colui al quale noi rivolgiamo le nostre preghiere, è il creatore dell'universo, che Lui controlla e regna su ogni cosa, che Lui è colui che dà il nome a ogni stella che in questo istante si sta formando nell'universo, che Lui è colui che permette al tuo cuore di battere e al tuo respiro di essere presente, che dà vita a ciascuno di noi, che fa crescere le piante. La fede riconosce il Dio onnipotente, la sua grandezza, e di conseguenza la fede ci permette anche di riconoscere chi siamo noi. Se il primo punto è riconosce chi è Lui, il secondo punto è riconosce chi sei tu. La donna era consapevole di essere una peccatrice, di essere lontana da Dio, ed è consapevole di non avere nessun diritto neanche di rivolgere la sua parola a questo Dio meraviglioso che gli sta passando davanti. Perché nel leggere la storia, non so se vi siete resi conto, quando Gesù dice non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini, ella disse sì, Signore. Non si alzò e se ne andò, non prese, non si offese, non si ribellò a quella che era l'esclamazione di Gesù e quello che Gesù stava dicendo di lei. Riconobbe che quella che era la parola di Gesù in quel momento era parola di verità, Quello che Gesù stava dicendo a questa donna era esattamente la condizione della sua vita. Lei era un cane, lei era lontano da Dio, lei non era degna di Dio. E io spero che questa sera noi siamo consapevoli di quello che noi siamo senza Cristo Gesù. Senza Cristo Gesù noi tutti siamo dei cani. So che non eravate venuti qui questa sera per sentirvi dire che siete dei cani. Non scrivetelo su Facebook, no? Perché molto spesso mettono le frasi della predica e con l'hashtag Mirko ci ha detto che siamo dei cani. Però questa sera è importante che se vogliamo tutti noi crescere nella fede, noi dobbiamo riconoscere chi siamo. Noi siamo una nullità davanti a Dio. Noi non valiamo niente a confronto suo. Noi siamo piccoli e insignificanti. Noi non possiamo pretendere niente. Infatti l'opposto della fede è la pretesa. E noi molto spesso crediamo di avere fede quando in realtà abbiamo pretesa nei confronti di Dio. La pretesa è quel tipo di preghiera che ti porta a dire a Dio: fai come dico io. E quando Dio non fa come dici tu, tu hai il diritto di poter dire a Lui che non è buono abbastanza, che ti ha deluso, che ti ha fatto arrabbiare. Avete mai sentito un credente dire: sono arrabbiato con Dio? A me fa sorridere, però io credo che è qualcosa di terribile. Tante volte io ho detto, io sono offeso con Dio, sono arrabbiato, non prego più, non leggo più la Bibbia, se mi vuole mi chiamasse Lui. Basta. Dio non va trattato così. Dio è Dio. E noi dobbiamo renderci conto che la nostra offesa, la nostra rabbia è motivata da una cosa molto grave, che è l'orgoglio. Questa donna non aveva orgoglio. Questa donna era umile. E riconosceva la sua condizione. Stasera, se tu vuoi crescere nella fede, riconosci chi sei. Non è qualcosa di negativo dire io sono un peccatore, io sono un cane. Quando tu leggi la Bibbia, molto spesso la Bibbia ti riprende, ti dice tu sei un peccatore. La Bibbia ti dice hai sbagliato. La Bibbia è un libro pesante da leggere, molto spesso perché ti senti puntare questo dito, no, contro, che ti dice non stai facendo bene questo, e dici le bugie, e hai pensieri negativi, e non ami il tuo prossimo abbastanza. Questo è quello che la Bibbia fa, ma lo fa per una ragione specifica, per svelare quella che è la condizione del nostro cuore, portarci a una disperazione nella nostra condizione che ci porta a chiedere aiuto a Dio e salvezza a colui che può ristorare la nostra vita e darci una nuova identità. Lui è l'unico che fa di noi dall'essere dei cani all'essere dei figli. Non è un tuo diritto, non può essere una tua pretesa. Avevo 13 anni e venne un giorno un amico a casa, aveva il suo scooter nuovo. Era il periodo nel quale tu potevi guidare un cinquantino, no, di cilindrata senza avere necessità di patente, senza avere la necessità della targa, senza l'assicurazione. Quanti si ricordano questo periodo d'oro e quanti stanno confessando che sono diventati vecchi come me, stanno invecchiando sempre di più? No, prima era così, non avevi bisogno di niente, potevi guidare il motorino. E questo mio amico venne a casa e si presentò col suo motorino nuovo ed era tutto entusiasta. Fa: Mirko, vieni a vedere, guarda che bel acquisto che mio padre mi ha fatto. Io lo guardai ed ero geloso dentro, ero invidioso perché c'aveva questo motorino, e dall'alto della mia sicurezza, perché sono sempre stato una persona abbastanza sicura, ho detto posso portarlo, posso fare un giro? E lui mi fece questa domanda che non dimenticherò mai, soprattutto per come andò a finire la storia: lo sai portare? Perché ridete già? Avete già capito tutto. E io naturalmente dissi sì che lo so portare, perché nella mia mente che ci vuole? È una bicicletta con un motore, basta girare la manopola e cammina al posto di pedalare. E quindi mi misi su questo motorino e men che non si dica, quando arrivai alla fine del... perché noi viviamo in un vico, no? E quindi a un certo punto devi girare. E quello era il momento di panico maggiore. Sapevo che dovevo girare, sapevo che non potevo continuare ad accelerare, sapevo che dovevo frenare frenare, sterzare, e feci tutto l'opposto. Proprio alla curva cominciai ad accelerare al posto di frenare, al posto di sterzare tirai dritto, andai a sbattere contro il muro e il motorino del mio amico si ritrovò con una forcella tutta storta. È fede questa? No, questa non è fede, questa è ingenuità e questo è orgoglio. E a volte noi ci comportiamo e guidiamo la nostra vita nella stessa maniera e noi ci relazioniamo a Dio con lo stesso tipo di attitudine, col stesso tipo di atteggiamento. Non lo fare. Dio ti ama, Lui vuole il meglio per te, Lui ha ogni benedizione preparata per te e quello che Lui sta facendo è cercare di modellare il tuo carattere e cercare di tirar fuori il meglio della fede che può tirar fuori, è quello che sta facendo con questa donna, ma tu devi riconoscerlo, tu devi riconoscere che Lui è il Dio, non tu, che Lui è il re, tu sei il suddito, tu sei il servo e devi riconoscere la tua condizione e la tua preghiera deve avere una forma che rispetta quella grandezza di Dio, riconosci chi sei tu. Terzo punto, comprende la grazia. La fede comprende la grazia, non mette mai niente sulla bilancia dei propri diritti, no? A volte noi andiamo da Dio e diciamo, Signore, hai visto? È da 3 mesi che vado in chiesa ogni domenica. Signore, hai visto che mi sono battezzato? Signore, era gelida quell'acqua. Non so se mi spiego, e l'ho fatto per te. No, non di più. Cioè, io sono andato anche ad Antonio De Nicolo e ho dato la mia disponibilità per l'accoglienza. Signore, l'hai visto? Cioè, io ogni domenica sto lì ad accogliere le persone, a dare abbracci e baci a persone che non sopporto. Tutto questo per il sacrificio a te. Lo vedi, Signore, quanto sono buono? Ti dirò di più, Signore, non so se hai notato, ma ho fatto un digiuno. Vabbè, era solo una colazione, però non fa neanche, di solito prendo solo un caffè, però per me era digiuno. Cioè, l'hai visto? Hai visto che ho fatto digiuno per te? Gesù, ho letto ogni giorno dal calendario. Io sto leggendo la Bibbia, io la sto studiando, io sono un teologo. Ogni giorno vado a tirare quel fogliettino e non leggo solo la pagina di fronte, leggo anche il retro. Signore, ora ho una piccola richiesta da farti. Una piccola, piccola richiesta. Signore, toglimi questo mutuo, intervieni tu, fa che... Mirko ha detto che dobbiamo avere fede, fede per il Dio di impotenza. Fai che si abbassi. Il giorno dopo ti arriva la lettera dalla banca, il mutuo è cresciuto, tu hai perso lavoro e sei adesso arrabbiato, disperato, deluso, non ci vai più in chiesa, non stai più all'accoglienza e non digiunerai più per il resto della tua vita. Questa è immaturità. E invece Dio vuole fare di noi degli uomini maturi nella fede, delle donne mature nella fede, dei ragazzi, delle ragazze, dei giovani che hanno fede, che si abbassano, che sono disposti ad abbassarsi quanto più possibile per perseverare nel ricevere quello che Dio vuole darci, perché Dio vuole benedirci e vuole arricchirci. Comprendi però la grazia, comprendi che tutto quello che Dio ti dà è un dono immeritato suo. Sei stato guarito in passato, è un dono che non hai meritato. Sei stato salvato in passato, è un dono che non hai meritato. Hai avuto un lavoro, è un dono che non hai meritato. Hai salute oggi, è un dono. Puoi pregare oggi per la tua malattia, è un dono che non hai meritato. Perché non ti è nulla dato a te per le tue forze, per i tuoi meriti, per le tue capacità, ma tutto a Cristo Gesù. È Lui che ha dato se stesso per te, è Lui la grazia in persona che si è sacrificata per permetterti di avere relazione con Dio. Punto numero 4, persevera. La fede buona, la fede sana persevera. Vedete questa donna, va da Gesù, comincia a gridare e quello che ha come risposta è un silenzio. Nessuno risponde. Gesù non batte ciglio. Questa donna non si ferma. Continua tanto da infastidire i suoi discepoli. I discepoli la rigettano. Letteralmente, provate a immaginare questa donna che si sente dire, mandala via. Ti sta disturbando, stiamo camminando così bene con te, maestro, mandala via. Provate a immaginare questa donna che vede questo tipo di atteggiamento, di superficialità, di rigetto, e va avanti, e continua a pregare, e riceve la prima risposta da Gesù, la prima risposta che è una porta chiusa. Dice, io non sono venuto per voi, io sono stato mandato da Dio principalmente per la casa di Israele. Questa è una porta chiusa che questa donna si ritrova, e la donna non si ferma. La donna va avanti, io sono convinto che Gesù ha detto quello che ha detto, e l'ha detto come lo ha detto, esattamente perché sapeva che stava forgiando la fede di questa donna, sapeva che poteva spremere di più, sapeva che poteva pretendere di più, ed è quello che fa con te, permette quella tempesta, permette quella situazione difficile, e più è difficile, più sii orgoglioso in un senso buono, più riempiti di entusiasmo, perché se Dio sta permettendo a te di affrontare delle situazioni che sembrano incredibilmente grandi, è perché crede che tu puoi esercitare ancora meglio la fede, che tu puoi continuare a perseverare. La perseveranza è uno degli attributi più importanti della fede. La fede non si stanca, la fede va avanti, e questa donna riceve questa prima risposta che è un portone chiuso, poi torna da Gesù, si inginocchia davanti a lui, chiede di nuovo aiuto, e Gesù gli dà un'altra risposta, e questa è un'altra risposta dove non sembra avere grosse opportunità, eppure fino alla fine la perseveranza di questa donna viene premiata. Quando ti sei fermato dal pregare quella preghiera, quando ti sei fermato dal credere quel miracolo, quando ti sei fermato, fratello, sorella, amico, quando ti sei fermato dal credere che il Dio dell'impossibile può ogni cosa nella tua vita, nella tua famiglia, nella tua città, riprendi a pregare. C'è un verso che io ho imparato a memoria, si trova in Filippesi 4, lo possiamo leggere anche, dice: rallegratevi sempre nel Signore. Che bello il messaggio di Dio che dice rallegratevi sempre nel Signore. Poi dice, lo ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino, non è lontano, Lui c'è. E non angustiatevi di nulla. Non vi preoccupate di nulla, non fatevi pesare da nulla, non entrate in ansia, in tensione, in stress, non angustiatevi di nulla, ma fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamento, e la pace di Dio, che sovravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Non angustiatevi di nulla, non angustiarti di nulla questa sera. In ogni cosa fai conoscere a Dio le tue preghiere. Falle conoscere a Dio. Qual è la tua richiesta? Qual è la tua più grande richiesta che Dio... Più grande la richiesta, più stai glorificando Dio. Perché tanto grande la richiesta, tanto grande è la fede che richiede quella richiesta una risposta, per quella richiesta una risposta. Tanto più grande la tua domanda, la tua richiesta, tanto più grande la tua visione di Dio. Non limitare le tue preghiere a piccole, insignificanti preghiere che sai che se vengono esaudite, bene, se non vengono esaudite, poco male. Fai delle grandi richieste a Dio. E dice in suppliche, sapete cosa sono le suppliche? Le suppliche non sono altro che preghiere che vengono ripetute. Non è altro che la preghiera che non si ferma a una sola volta, ma viene rifatta il giorno dopo, e viene poi rifatta il giorno dopo ancora, e va avanti per un mese, anche per anni. Ci sono persone che qui in mezzo a noi hanno pregato certe preghiere per anni prima di poter vedere la risposta, perché Dio conosce i tempi giusti meglio di noi, ma Dio desidera la supplica perché Lui ne ha bisogno. Perché è duro d'orecchio, perché non sente abbastanza, ha bisogno che noi gli ricordiamo quello che gli abbiamo chiesto. No, Lui vuole la supplica perché sa che è necessaria per noi, fa bene a noi. La supplica è l'esercizio della fede. Quando tu preghi a Dio non solo una volta e non ti limiti solo a quella volta, ma il giorno dopo ripreghi quella stessa preghiera, non in maniera religiosa, ma come per ricordare a te stesso che stai credendo in Dio, che ti stai appoggiando a Lui, non stai trovando altre soluzioni, non stai trovando altre risposte al di fuori di Lui, quello è un esercizio di fede, la supplica è ciò che Dio vuole. Gesù ha insegnato nel Padre nostro, dacci oggi il nostro pane necessario. Sapete perché l'ha insegnato? Perché ha voluto dire noi ogni giorno dobbiamo rimetterci in preghiera per le nostre necessità. Non possiamo vivere di eredità. Gesù si compiace in quel tipo di preghiera dove tu vai e dici Signore, vengo a te per chiederti quello che già ti ho chiesto ieri. E lo chiedo di nuovo a te perché credo che tu sei l'unica soluzione. Perché credo, pare, che il tuo silenzio ha una ragione di essere. Signore, io vengo a te perché so che fa bene a me ricordarti la preghiera che ho fatto ieri. Signore, io vengo a te perché voglio insistere su questo punto. Io voglio vedere salvezza nella mia famiglia. Io voglio soluzione nel mio matrimonio. Io voglio soluzione per i miei figli. Vedete che questa è una donna che intercede per sua figlia. Questo è un incoraggiamento per tutti i genitori. Se io stasera posso stare qui su questo palco a predicare di un Dio che conosco, essere mio, personale, è perché so che lo devo principalmente alle preghiere di mia madre e di mio padre, che non si sono fermate e hanno continuato a pregare nei tempi più bui della mia vita e la loro preghiera è stata incessante per me, per il mio cuore. Se sei un genitore questa sera, forse questo è il messaggio che ti devi portare a casa. Prega, supplica, digiuna e riprega e risupplica e ridigiuna per i tuoi figli. Perché Dio è lì che ti ascolta e Lui non ti rigetterà mai ed è suo desiderio, è parte del suo carattere dare benedizioni e rispondere alle preghiere. La supplica serve a noi, l'esercizio della fede, perché sapete il contrario di fede è proprio l'autosufficienza. Il contrario di fede è l'autonomia. Il contrario di fede è indipendenza. Ma quando noi esercitiamo tutto il contrario, dipendenza a Dio, legame con Lui, stretta connessione a Lui, allora questo esercita la nostra fede. Questa donna ha tanto da insegnare, da insegnare sull'insistenza, sulla costanza, sulla perseveranza e sulla sua fede. Punto quinto. Non soffre il rigetto. Posso avere un po' d'acqua che sto perdendo la voce? Non soffre il rigetto. Siamo quasi alla fine, altri due punti. Non soffre il rigetto. La fede buona, quella sana, non soffre il rigetto. Guardate bene che non sto parlando del rigetto di Gesù, perché Gesù non ha mai rigettato questa donna. Sto parlando del rigetto dei discepoli. L'abbiamo letto, no? Mandala via. Perché ci grida dietro, ci disturba. E questo tipo di voci noi le sentiamo nella nostra vita quotidiana, nella nostra vita di fede. Ci sono voci che sono voci di rigetto, sono quel tipo di voce che ti dice chi te lo fa fare ad andare in chiesa? Hai visto che la tua situazione non cambia? Sono quel tipo di voce che dice lascia stare, lui non ti ascolta. Non è interessato a te. Non è Gesù che lo dice, è il nemico che lo dice, o sono gli altri che lo dicono. In questo caso sono i discepoli che hanno parole di rigetto nei confronti della donna. Ma il bello di questa storia è che poco dopo noi leggiamo che c'è un grande ma, avete notato? Dice, ma Gesù, ma egli rispose. Quel ma sta ad indicare che Gesù aveva un atteggiamento completamente diverso nei confronti della donna. Non aveva l'atteggiamento, non aveva il pensiero, non aveva il sentimento che ha mosso questi discepoli nel dire quello che hanno detto. Ma Gesù gli rispose in una maniera diversa. Gesù ti vede con occhi di amore. Gesù ti vede con occhi di grazia. Gesù vuole il meglio per te. Non so quante volte devo ripeterlo questa sera, ma spero che tu ti possa convincere che il tuo Dio è un Dio buono. È un Dio che vuole benedirti, Lui ama benedire le persone, lui ama guarire, lui ama elargire benedizioni sui suoi figli, perché dovrebbe mantenere, questa è la sua natura, non può costringere se stesso a fare qualcosa che va contro la sua natura. Il rigetto non è da lui. Se ti senti rigettato nella tua preghiera, in quello che stai vivendo, sappi questo, non è Gesù, non è Dio che ti rigetta. Lui è lì che ti ascolta. E forse non risponderà subito, forse ti lascerà nel silenzio, ma lui ti ama e non ti rigetta. Ce la stiamo facendo. Sesto punto, la fede dialoga. Questo è un punto bellissimo, dove quando sono arrivato al pensiero di questo punto ho detto ecco, qui si conclude il messaggio, poi per la ragione che vi ho detto sono arrivato al settimo punto, però la fede dialoga. Vedete, la fede è qualcosa che mette in noi quella confidenza e quella sicurezza del fatto che Dio vuole dialogare con noi, che vuole parlare con noi, che vuole una relazione. Quello che la donna fa è dialogare con Gesù. Gesù gli propone una metafora, gli propone un'illustrazione per farle capire il motivo per il quale lui non sta operando miracoli in quell'area, per il motivo per il quale lui non sta ministrando in Tiro e in Sidone. Ma lei dialoga con Gesù, comincia a parlare, comincia a proporre il suo punto di vista. E sapete, Dio ama questo. Dio non è chiuso e barricato nei suoi ragionamenti, nei suoi pensieri. I suoi ragionamenti sono sempre giusti, non sono mai sbagliati, e noi non potremo mai far cambiare idea a Dio, perché la sua idea è comunque sempre migliore della nostra. Ben venga che non cambia idea e che non si allinea alla nostra volontà, sennò chi lo sa dove andremo a finire. Lui sa sempre quello che è il meglio per tutti, però lui vuole dialogo, lui vuole relazione, e la fede ti chiama ad avere una relazione con Dio. La fede ti porta a fare quel tipo di preghiera dove tu dialoghi con Dio. E dici, Gesù, non ho tanto capito perché non mi hai risposto. Gesù, non so perché sento questo silenzio. Io so che tu mi ami. Fammelo capire. Gesù, io so che tu sei buono, eppure vengono dei dubbi dentro di me perché vedo delle cose che mi disturbano e mi fanno pensare altrimenti. Fammi cambiare idea. Parliamone insieme. Dio vuole ragionare con te. Dio vuole parlare con te. Dio vuole spendere ore come un amante. Desidera stare con la propria amata. Amante nel senso positivo. Così Dio vuole stare con noi. Così Dio vuole una relazione con me, con te. Forse sei qui questa sera e riconosci di non avere una relazione con Dio. Dio non vuole che tu faccia delle preghiere strutturate, impostate, che tu le ripeta come qualcosa che deve convincerlo e deve sembrare qualcosa di rituale, di pio, di religioso, di sufficiente abbastanza per attirare la sua attenzione. Dio non vuole niente di tutto questo. Lui vuole il tuo cuore. Lui vuole la relazione con te. E se questa sera sei qui e riconosci che non hai una relazione con Dio, puoi averla. E Gesù è il primo che è disposto a dialogare, è il primo che si ferma per strada e dice, caspita, qui c'è da parlare, qui c'è da ragionare, qui c'è da ripensare, qui c'è da operare, qui c'è da benedire, qui c'è da liberare, da trasformare. Ed è quello che vuole fare nella tua vita. Abbi una fede che dialoga. Non chiuderti nella tua testardaggine. Io mi voglio rivolgere in modo particolare agli uomini questa sera, perché sono uomo io e lo so il tipo di orgoglio che noi abbiamo, so il tipo di chiusura che noi abbiamo. Se vieni in casa mia, tu anche ad occhi chiusi, e non necessariamente per il tono di voce, riconosceresti chi è donna in casa nostra. Perché è la voce che è più costantemente presente, è la voce che più si apre, è la voce che è sempre disposta a mettersi in discussione, a fare ragionamenti. Quella voce che sentiresti di meno è proprio la mia. perché sono introverso, sono chiuso, non dialogo molto, ma noi uomini dobbiamo sbloccarci da questo perché Dio vuole dialogare con noi, perché Dio vuole parlare, vuole sentirci parlare. Dio vuole che noi facciamo delle preghiere che non sono delle preghiere misere, striminzite, fatte in fretta. Dio vuole che noi passiamo del tempo di qualità con Lui. È per questo che i ritiri sono qualcosa di meraviglioso. Per chi li ha vissuti sa di che cosa parlo. Quando andiamo al ritiro, noi non facciamo altro. Non devi vedere chissà che cosa viene fatta al ritiro. L'unica cosa che viene fatta al ritiro è cercare di seguire la parola di Dio. Quando in Giacomo dice avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. E quasi sembra che dia una proporzione quel verso. Dice nella misura con la quale tu ti avvicini a Dio, tanto più Lui si avvicinerà a te. E nel ritiro noi spegniamo i cellulari, ci appartiamo per 2 giorni interi, stacchiamo con la vita di ogni giorno per entrare in connessione con Dio, per pregare più di quanto preghiamo normalmente, per stare con i fratelli più tempo di quello che stiamo normalmente, per leggere, pregare, studiare la parola più di quello che facciamo normalmente. Quindi per chi ha cominciato il corso di consolidamento questa sera, io già vi anticipo che c'è il ritiro a fine di questo percorso ed è qualcosa di meraviglioso, di stupendo da poter fare. 7° punto, 8° punto, abbiamo finito. La fede si prostra. La fede si inginocchia. Vedete, questa donna aveva tutte le buone ragioni per girare le spalle e andar via. Aveva tutte le buone ragioni per chiudersi in una rabbia e in una delusione. Aveva tutte le buone ragioni per non continuare ad insistere nella sua richiesta. Ma invece quello che noi vediamo fare a questa donna e adorare. C'è un'altra traduzione della Bibbia che traduce proprio quel prostrarsi davanti a Gesù come adorazione. Si mise lì e lo adorò. E la fede adora, la fede si prostra, la fede ti porta a inginocchiarti, a dire io sono piccolo, lo devo riconoscere con tutte e due le mie gambe. Io sono piccolo e Lui è grande. Io non sono degno di avere niente da Lui, e tutto quello che ho e che ho avuto finora è per la sua grazia, per il suo amore. La fede ti porta a farti piccolo e a credere in un Dio grande e ad abbracciare quella soluzione che sai che non può essere in te stesso. Ad abbracciare quella soluzione che sai che non hai potuto avere finora perché tu non hai le forze, perché tu non puoi, perché tu non sei Dio. Ma è quell'attitudine che ti porta a riconoscere che pur tu non essendo Dio, hai Dio davanti e puoi adorarlo e puoi pregare a Lui e puoi dire, Signore, io desidero tanto che Tu intervenga nella mia vita. E questo forse è il punto di preghiera che tu devi vivere questa sera. Forse questa sera sei venuto proprio perché hai bisogno di prostrarti davanti a Dio e riconoscere, Signore, io ho bisogno di Te. Io ho bisogno di riconoscere che Tu sei grande. Io ho bisogno di riconoscere che Tu sei il Dio onnipotente, che può ogni cosa e fa ogni cosa bene. Fa ogni cosa bene. Anche quando non Ti comprendo, io Ti adoro. Anche quando ho un silenzio, io Ti adoro. Anche quando mi sento voci di rigetto, io Ti adoro. Anche quando Tu sembra che mi chiudi la porta, ma in altri termini stai solo cercando di modellare, forgiare meglio il mio oro, che è la fede, io voglio essere qui e adorarti. Questa sera, io, tu, abbiamo la possibilità di dire no all'orgoglio, di dire basta all'indipendenza, di dire basta alla rabbia, all'autosufficienza, di dire basta alle pretese e di abbassarci, inginocchiarci e dire Signore è di Te che ho bisogno e torno da Te nella giusta attitudine. Vogliamo alzarci in piedi? E mentre il gruppo lode sale, vogliamo tutti entrare in un'attitudine di adorazione davanti a Dio. Io so che il Signore ha parlato, mi ha dato 7 punti perché almeno uno era per te questa sera. Forse devi riconoscere chi è Lui, forse devi riconoscere chi sei tu. Forse devi esercitare una fede che persevera, forse hai bisogno di avere una fede che non subisce rigetto di alcun tipo. Non lo so, qual è il passo che devi fare? Ma stasera hai l'opportunità di farlo. E quale serata migliore, perché abbiamo anche la cena del Signore. Abbiamo la possibilità proprio di approcciarci a Dio, a Gesù, e riconoscere che Lui è il pane della vita e che Lui ha dato se stesso completamente per noi. E Lui l'ha fatto per garantirci vita e vita in abbondanza. Sapete che Gesù a un certo punto ha detto proprio questo. Il ladro, il nemico, il diavolo, Satana, viene per rubare, ammazzare, distruggere, ma io sono venuto affinché voi abbiate vita e vita in abbondanza. E se Gesù l'ha potuto fare per quella donna 2000 anni fa, lo può fare per te oggi. Se Lui ha esaudito quel tipo di preghiera, quel tipo di insistenza, Lui può e vuole ascoltare la tua preghiera, la tua insistenza questa sera. E io spero che in queste parole tu stai sentendo la voce di Dio che ti sta chiamando a Lui, perché Lui ti ama troppo e non vuole che tu rimani nella condizione in cui ti trovi. Io credo che Dio mi ha dato questo messaggio perché Lui sta chiamando la nostra Chiesa a vivere una fede più profonda. Sta chiamando la nostra Chiesa ad essere una Chiesa che crede nei miracoli di Dio, ad essere una Chiesa che crede che Dio può salvare molte più persone di quelle che noi vediamo, che il nostro Dio è il Dio potente che cambia, che stravolge e trasforma intere famiglie, non solo per singole persone. Io credo che Dio ci sta chiamando ad essere quel gruppo di persone che crede, che prega, che persevera e che ottiene. Perché Dio non vuole lasciarci orfani e non vuole lasciarci senza benedizione. Questa sera Lui ha una benedizione per te. E tu la puoi afferrare, dipende da quanto ci credi, da quanto permetti a Dio di agire nella tua vita e modellare e togliere soprattutto quella parte spigolosa, quell'orgoglio, quella pretesa, quell'atteggiamento sbagliato che non dovresti avere, che sai che questa sera Dio ti ha detto di toglierlo. Io voglio pregare. Voglio pregare per questo momento che andiamo a vivere. Questo è il momento più importante di questa serata per me. Perché ora hai ascoltato anche forse solo una parola che lo Spirito Santo ha suggerito alle tue orecchie. Ma questo è il momento nel quale tu puoi sintonizzarti con Dio, metterti in preghiera, metterti in ginocchio, riconoscere la tua condizione. E riconoscere che hai un Dio grande che ti vuole, ti desidera questa sera. Voglio invitare tutte le persone che vogliono partecipare alla cena del Signore. Se sei stato battezzato da adulto, sei parte di questa famiglia, allora puoi partecipare alla cena del Signore. E io ti invito a partecipare a questa cena con un'attitudine di impegno davanti a Dio, impegnandoti a crescere nella fede, perché Gesù vuole che cresci nella fede. E se Lui lo vuole e tu non tanto lo vuoi, c'è un contrasto, c'è un conflitto, c'è un accordo da prendere, c'è qualcuno che si deve riconciliare, sei tu che ti devi riconciliare con Dio. Non puoi essere in questa chiesa da 20 anni, da 30 anni, da 40 anni e continuare ad essere nella stessa attitudine, nella stessa condizione di fede. Dio vuole di più e ti ama. Ed è per questo che te lo sta dicendo questa sera. E tu puoi afferrare questa sfida e prendere questo impegno e fare una semplice preghiera e dire: Signore, da questa sera io ti chiedo di aiutarmi a crescere nella fede. Nelle tempeste che affronto, nelle tempeste che tu permetti nella mia vita, io voglio attivarmi di più nel credere, nell'avere quell'attitudine che ha caratterizzato la donna cananea. Per ogni persona che vuole ricevere preghiera, forse sei qui per la prima volta, e vuoi accettare Gesù nel tuo cuore, che significa semplicemente dire: Gesù, io mi rendo conto che non ho una relazione con te, ma voglio averla, io ci sarò qui, io sarò qui davanti con Noemi, altri ministri, e vogliamo pregare per te, voglio pregare per ogni persona anche che richiede preghiera. Magari tu questa sera dici: io ho bisogno che un fratello, che una sorella mi sostenga in questa battaglia, mi sostenga in questo impegno. Allora noi vogliamo pregare per te. Infatti voglio invitare anche il pastore, i vari ministri a venire avanti, così che possiamo vivere un tempo di preghiera, e prenderemo tutto il tempo necessario per vivere questo, va bene? Preghiamo. Gesù, sei buono. Gesù, sei veramente buono.